niente della D, costava troppo a mantenerla, se non lavori che cazzo te ne fai? Mi ho fatto trovare quella della macchina blu. No, ma la mia non ha niente che vedere con la patente B, D, C, eccetera, no. Il mio è una semplice parte, un patentino per la scala aerea, punto e basta. Tant'è vero che quello, sì, se mi sono si chiamato io a Ottava, se hai il patentino te lo dà a te, per un tot al giorno, un tot a ore. Mentre invece se lo vuoi con l'autista paghi di più, giustamente, capito? Lo so. Tu informato ti sei quanto lo, perché io ne ho uno sotto mano e so già il prezzo e tutto. Quanto ti ha fatto a te? Con l'autista giustamente? Mi ha fatto 60 di chiamata più 50 a ora. 110. Noi quando lavoravo io prendevo 150 al giorno, fate il conto. Tutto lì potevi trattarlo. Avevo noi a prenderlo. Io posso fare un giro di telefonate e te lo dico subito, non subito adesso, però te lo posso dire domani. Ma ci vorrà un permesso per fare questo lavoro, Turi? Ci vuole il patentino per legge, perché tu devi, allora, attrezzati l'area dove mettere il carovo, capito? Automaticamente devi farti un'area dove non passa nessuno, per forza, perché è pericoloso, come giri cestelle, eccetera, eccetera. Non ci vuole nessuno vicino. Metti stabilizzatori, devi mettere il livello, c'è anche il livello sopra che dice quando è a posto, capito? Poi ci vuole uno giù e uno su, per forza, perché quello che è sopra si va a piazzare l'antenna, quello che è sotto è quello che ha preso il camioncino, perché se dovesse si spegnersi sopra, tu rimani sopra e dici ma il bunker va a farà, mentre invece quando uno è giù, accende il drone, il motore e ti cala di nuovo giù. Ho capito, ma tu non hai capito a me, ci vuole un permesso per metterlo nel vicolo dai vigili urbani, per fare questo tipo di lavoro ci vuole un permesso dai vigili. Tu giustamente devi chiedere che tu da tale ora, un'oretta, quello che devo piazzare un'antenna a mettere questo camioncino con il cestello. Quindi, cosa devi chiedere per forza, cioè, non è che tu quindi ti blocchi il traffico, o c'è che dai, un piccolo, che vuoi permesso, ti diranno ok, ti faranno un foglio e tu da tale ora puoi piazzare, ti lasci il parcheggio libero e metti il camioncino. Ovviamente queste cose si fanno sempre così, perché bisogna per forza chiedere, tu non sei un padrone della barriera, ma un cambio di tutti, no? E appunto, magari loro non lo sapevano. Loro non lo sanno, se lo dici tu, anche lo devi andare a prendere, no? Ti metti a colla che col gestello, eccetera, eccetera. Capito, Natalia? Vabbè dai, io vi lascio che devo preparare per mangiare. Ci sentiamo alle prossime. Era buona la pasta di ieri almeno. Eia. Ieri o l'altro ieri mi ha detto che dovevi fare una pasta meravigliosa, era buona almeno. È uscita di lusso. Eccellente, va bene. Poi io, vabbè, Natali, vabbè, buona cucinata, no? Io mi chiedevo lì quanto ci vuole il lavoro, basta un'ora oppure due ore, che ne so, che non ho in mente bene cosa c'è da mettere, se c'è il palo da cambiare, tiranti da mettere. Non c'è da mettere niente, svito un dado e l'antenna si sfila perché è già dentro un altro palo. E ne esce il palo con l'antenna, pronto a piazzare. Devo comprare solo le staffe, io uguali a queste che ho qua, e piazzarle, Adriano. Scusa, le staffe come le piazze, Natali? Come? Le staffe come le piazze? Col trapano, la giascaiola, come le piazzi? Col trapano e col chimico, come ho piazzato queste qua, gli metto quelle barre filettate, le abbiamo tagliate con la molletta e messe. Sono messe bene queste che ci sono qua e così faccio quelle là, sono di quelle belle pesanti e la fila, quella filettata è bella grossa. E il trapano ce l'ha che per portarlo fin sopra la pronuca? Anch'io me lo chiedo, Tony, perché poi vai al momento, magari ti manca la prolunga o non hai trappa una batteria e quello dice cosa sono venuto a fare? Mi prendo 30 metri di cavo elettrico, una prolunga fino a prova contraria me la so fare, perché quella che avevo se l'avranno rubata in campagna e non ci voglio salire. Non ti preoccupare, ma giù due drappa, una batteria e uno elettrico. per quella fila, per quelle barre filettate. C'ho tutto. Ne devo comprare solo le staffe nuove e blu. E le barre filettate. Poi mi serviva una moletta per tagliarle a misura, adesso che ci penso, perché la moletta non l'hanno rubata. Antonino, allora moletta te lo do io, non c'è problema. Il cavo non comprarlo, ho due prolunghe quel cavo arancione di 20 metri, uno sono 40 metri, ti basta. E ia, andrà bene a me, da là già, quando faccio il tutto già vi avverto. Comunque adesso devo andarmene, perché devo cenare, là. Sentiamo le prossime, vi ascolto comunque. E lo sappiamo che c'è fame. Ciao, buon corizio, buon carico. Davanti già. Buona carica, Natalina, io mi asseguo due secondi e vado in bagno. A voi la partita. Cambia l'acqua alle olive. Sì, Natali, comunque ok, se sei all'ascolto ancora mi raccomando, il giorno che li chiami, a parte lì è un punto bruttissimo perché tra l'angolo lì sempre pieno di macchine, ecco perché bisogna mettere un passo carreggio temporaneo, no? Per non far mettere nessuno, se no non si può fermare nemmeno la scala aerea lì, il coso, il mezzo. E poi lì è più dentro, mamma mia, è un caos lì, è un casino, è stretto il vicolo, poi non ci passa niente, a malapena ci passa una macchina, e gira, se sei in mezzo al vicolo non puoi nemmeno aprire le portiere, adesso non mi ricordo se così là, però devi vedere tutto, ogni singolo tassello, vite, se ti manca qualcosa cruciale, che quello è già lì e non si va avanti è un macello, quindi studiatela ben bene, devi avere tutto il materiale prima di chiamare. E comunque io un tirante, almeno quello per contrastare almeno il maestrale che da noi c'è sempre, l'avrei messo. Boh, vabbè, Tonino, cosa ne dici? Io conosco la zona, perché lì c'è abita la mia suocera, quindi, la buon'anima. Allora, lui, se, purtroppo ci sono dei cacchi, dei cassonetti proprio lì in mezzo alle palle. Lui si deve mettere in mezzo tra la via, il vicoletto, il vicolo chiuso, e non c'è tabacchino lì in mezzo, si mette. Con il braccio estende e toglie l'antenna che c'è attualmente. Poi, alza il braccio, tanto mi sa 20 metri, 25 metri, non so quanto stanno, 24, non mi ricordo. Dipende quanti metri è il palazzo, vede la buetta più alta. Alza il braccio, con lui sopra, sale su del tutto, ci porta il materiale e fa tutto, capito? Si può fare anche dall'esterno della via. Era meglio se saliva su marciapiede, perché è abbastanza largo, però ci sono i cassonetti troppassi, è un casino. Un deli entra dentro quel vicolo, è già entrata una scala aerea, un deli era. Natali, poi. Guarda che il messaggio, ti ho mandato un messaggio. Eia, va bene. Dai che sto per mangiare. Eia Lu. Luca, non so se io te l'avessi mandata la risposta, adesso mi è venuto il dubbio, però stavo pensando se dovesse essere necessario anche un contributo, vedo, cercherò di non spendermi tutto perché io ho le mani bucate, purché riesco a mettere l'antenna su. Luca non c'è, sempre da fatto, eia. E lì è un casino fare tutto, è un incubo, cioè vabbè qua dove abbiamo abitato noi, bene o male, sempre terrazze calpestabili, cioè puoi fare i salti mortali, puoi mettere quello che vuoi, ma lì è un incubo. Guarda, è un incubo anche cambiare le antenne TV, ecco perché il vicinato antenne TV e restio a cambiarne, perché è un casino fare tutto lì, cioè ci mandi l'uomo ragno a fare l'antennista, se no è problematico. E poi lui sono quelli che sono, sono tutti pratici. Poi non so, è entrato a vicino e non so neanche se ci passo con la macchina mia lì, forse con la macchina è tutto giusto. Comunque tutto a vedere la larghezza e tutto quanto, perché un camion gru, un cestello, un camioncino, c'è anche il fianco che è più largo, capito? Non so, comunque se si mette anche il retromarcia pure di fianco, già va bene lo stesso, non c'è problema. Poi valgo lì per dare un contributo, non c'è problema, un tanto per uno mettiamo e lo mettiamo a Natalino, non c'è problema per quello lì, capito? Sì, perché veramente li stanno avvelenando la vita, Poi Bottola quello non è affre, ma a parte che è un inquilino lì, figurati se si prende la pentoli, bucare, aprire la botola, non ne farà mai, poi non mi fiderei perché al prossimo TVI che lui prende per cause sue, può fargli rispetti se la mette nella botola di questo, gli può impedire l'accesso alla sua stessa antenna dopo che l'ha manomessa, io non mi fiderei, meglio allora guarda, alzarla, com'è adesso, però alzarla con l'autoscala. Non si finisce più con questa cosa. Qui abbiamo parlato anche di sensibilità dei decoder, di selettività dei decoder, che a livello di servitori decoder, che sembrano tutti uguali ma non lo sono, e sicuramente è come i baracchini, certi baracchini prendevano tanto di quel ciabotto dagli altri canali che non finiva più. I Baobao lo stesso, perché in antenna esterna prendono abbattimento da tutto, da cellulari, TV, da tutto qua, radio FM, Gianni se si ricorda quella volta a San Francesco, ricordati il Baofeng con l'antenna sua all'esterno riceveva bene, come abbiamo messo l'antenna da macchina magnetica, piccolina mia anche, mezzo metro, niente di niente, abbattimento zero, già te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, Marco, eravamo insieme. Ma poi a Natalino ne ho sabotato anche l'antenna della TV, dice che è una settimana che non vedeva televisore. Sarà cucinando e quindi vabbè, il discorso poi non ho finito, come ci sono ricevitori di cacca anche per i Mau Mau e compagni, e per i baracchini saranno anche ricevitori di cacca anche per il digitale terrestre, non sono tutti uguali, sembrano tutti uguali ma poi già ci sono delle differenze anche notevoli, ce ne sono più sensibili di decoder, meno sensibili, l'ho provato sulla mia pelle, vai Tony. Ecco. E tanto dalla moletta non c'è problema, ne ho due o tre io, poi dischetti nuovi ne ho una decina a voglia, che mi basta un dischetto solo, e delle zanche. Sì, perché in effetti cosa le fa comprare? 20-25 metri di cavo per fare la prolunga? Ah, ce l'ho io, già pronte, maschio e femmina, prese sciucco, ho quelli arancioni da 20 metri in uno, ne ho comprato due, fatto il conto, ne ho due, ho 40 metri se le unisco. Va bene, eccetera. Che comunque Natalino anche quando ce l'aveva sua antenna è molto penalizzata in quella zona, è come un buco nero. È come un buco nero, tante cose che io ascoltavo lui non lì li ascolta nel QRM. Eppure non è nemmeno attaccato a grattacieli enormi, no? Già ce l'ha la zona libera, per esempio dove c'è Ponte Rosello lì, tutta quella bella vallata che vedi dal ponte lì, e credo che sia verso Bussa, Orso, Polo Torres, lì è il libero, dovrebbe ricevere bene almeno lì. E poi vabbè, i misteri dell'etere, cosa volete che vi dica? Signori, io a Malagana devo uscire a completare la spesa, oggi sono da stamattina in giro tra coso, medicine mie da ritirare all'ufficio di coso, la revisione della macchina l'ho dovuta anche lavare prima, pensate che sotto le croste di cacca di gabbiano c'era una macchina. Ti sono casini se c'era la gente lì che faceva acqua. sì, è dalle piogge forti, un po' in inverno che non c'era polvere, poi questi gabbiani, sembra cemento, piccioni, quello è, quando diventa duro è come il cemento, devi faticare a toglierla. E vabbè, adesso la revisione è fatta, poi stasera al medico di mamma, adesso a fare la spesa, c'è un addito, già avete capito. E vabbè, lo so perché anche stamattina ero così, do una cosa all'altra, fa la spesa, farmacia, questo, quell'altro, sono tornato a casa che era l'una me lo dice. E poi io, poi c'ho sempre questo respiro corto per via il caldo o chissà cos'altro, mi piacerebbe portarmi una bombola di ossigeno dietro con la mascherina, so che non si può fare, ho sentito che è illegale guidare con l'ossigeno dietro. Si fa l'attacco, non se lo dico la domanda. Dal QSO con l'ossigeno dietro, ma no, sai che ti dà una botta di tutto, ti ossigena meglio il sangue, i tessuti, ti dà un pochino, pensa Tony, che addirittura negli Stati Uniti o anche in Giappone, in quei paesi tutti stravaganti, per i giovani non è niente di medico, vendono le bombolette di ossigeno che sembrano delle grosse bombolette spray con un piccolo coso per la bocca, come si dice, una piccola mascherina che poi dura pochi secondi, no? Ogni tanto quando vuoi una botta di non so, di vigore, quello che è, ti dai una dose di ossigeno, te la tiri su e dicono che sia un po', come dire, dopante, boh, ma a me sembra tutte stronzate comunque. Io ieri sera per ossigenare non è stata a Platano, ma c'era una dieta così bella. Sì, ma tu, come hai detto poco fa, Marco, praticamente attaccarlo dietro sembra che attaccavi un tubo al cuoio. Ma lì è complesso il sistema, allora bisogna fare l'uscita per il metano, ci vuole una valvola a doppio scambio, da una parte c'è il gas, da una parte deve entrare l'ossigeno, se poi sbaglio e mi respiro il metano, addio. Quindi fuoco. Cosa faccio? Il ricircolo dei gas, a presa di gas, come i fucili. No, a presa, a recupero di gas, come certi fucili. Tu Marco, le hai mai avute quelle pistole a gas? Sì, di tutto, di più. E come vanno? Ma tu quali dici? Quelle con le bombolette anidride carbonica a piombini? Già, allora, la carabina è molto più precisa, spari un colpo, ma dove miri prendi. Quelle con CO2, prima di tutto risentono molto del calore, della temperatura ambiente, quindi in inverno rendono poco. Poi, a parte i primi colpi a piena potenza, se aumenti già la distanza oltre 10 metri, anche 10 metri tende subito il colpo a scendere. Praticamente becca sempre più giù di dove miri, e quindi devi mirare un po' più in alto del segno, del centro del bersaglio. Man mano che poi spari colpi, devi sempre alzare di più il tiro, perché tende ad andare più in basso. Se poi ci aggiungi che quella che ho preso io a Natale, la Gamo PT85, sì, è bella perché è scarrellante, però essendo scarrellante è anche molto meno precisa. Praticamente tu miri da una parte e becca dall'altra, o più in basso, più a destra, più a sinistra. Ti dirò che dopo tutto non era così divertente. Sì, spari tanti colpi a cavolo di cane, ma se tira i barattoli ti diverti, ma io che tiro la targa, cioè il bersaglio, quello concentrico, non è risultata abbastanza deludente. Poi la canna è più corta della carabina, poi c'è quella con la carabina, ogni tiro è un centro, secondo me avresti dovuto tenerla, a dirla tutta, ma la puoi sempre ricomprare. Comunque, se la vuoi provare, te la presto, quelle cose le puoi cedere, contestare, un comodato d'uso, si chiama comodato d'uso non superiore alle 48 ore, perché quella è considerata arma di modesta capacità offensiva, quindi dopo 48 ore deve tornare qua. Ma io ti darei i pallini anche precisi, quelli costosissimi peraltro, e ti renderei conto di quanto è deludente, e le bombolette di CO2 ce le ho. Se la vuoi provare, dimmelo, c'è anche il cono di metallo che raccoglie i pallini, capito? Non rischi di buccare muri o di sporcare a terra. Lo so. No, ma se mi stai dicendo che così preferisco la carabina, senza ombra di dubbio. No, la pistola mi piace, però se non è precisa, dove ne vai? Ma quando facciamo la carabina, quella era bella davvero, Quindi non so che fine ha fatto, l'ho venduta e poi non so a chi sia andata, Però quella lì era bella, l'ha tenuta benissimo. Già una domanda, ma io ti avevo chiesto, tu tiravi in casa, no, con la carabina, alla moneta mi avevi detto, ma tu quanti metri utili reali misurati avevi in casa? Perché io ti avevo mandato una foto, io dal fondo al bagno, in fondo alla cucina sono 12 metri reali misurati quella cosa laser per le distanze della Parkside, il 3 metro laser lì per i cantieri, ed erano 12 metri e 20 centimetri a dirla tutta. E vabbè, con la carabina è troppo facile, con quella pistola ti rendi conto di tutti i limiti che ha, perché Sergio non è roba da tiro professionale, che hanno una potenza discreta, una precisione assoluta, quella è proprio per sparare tanti colpi a cacchio di cane, per tirare i barattoli, magari quelli grossetti della conserva, capito? Io Marco non l'ho mai misurato, però facevo dalla cucina sino al terrazzo, perché il tirassegno hai tirassegni, quindi proprio c'avevo allora una parte in lamiera, poi c'avevo un polistirolo per tutti nel corpo, e lo sai che mi ha bucato lo stesso il muro, cazzo. ma proprio buchi nel muro, che ha trapassato polistirolo, tirassegno, polistirolo, il coso di lamiera, l'ha bucato e si è passato e ha bucato il muro. No, ma sai perché te l'ho chiesto? Una volta te l'avevo detto, a quanto tiravi in casa già? E tu mi hai detto, saranno 50 metri. All'anima, a quanto è lungo sto corridoio? No, 50 metri, forse ho sbagliato. Ma comunque, dalla porta di cucina tiravo fuori delle terrazze, c'erano le porte aperte e tiravo fuori. Se rimbalzava il pallino spaccava il vetro, magari. Comunque non ha mai rimbalzato perché buca, ma la sorte si bucava, io usavo di quelli a punta. Ehi, chi è che ha detto? Ah, e avanti, buonasera. Ciao Lu, ben entrato. Cappa già, comunque se tu per curiosità la volessi provare magari ti piace pure, le trovi in vendita, ma non solo, io ho aggiustato quella vecchia e obsoleta, comprata nel 2001-2002, si era rovinato un gommino tondo, un gommino del valore di pochi centesimi, in Italia no, non si trovano i ricami, non esistono, ho trovato un sito, prima spagnolo, e non hanno risposto perché sono dei cafoni, poi portoghese, dal Portogallo mi hanno spedito i ricambi richiesti, ne ho presi anche di altro tipo in modo da avere ricambi, per pochi euro mi sono rimesso a posto una pistola che se no era da buttare, sempre col gas e i palini in piombo, capito? Vai Luca. Ciao Marco, ciao Gianni. Mi sono fatto lo sgarro di uscire, mettermi le scarpe, ce l'ho di nuovo il piede gonfio. Vabbè, briciola. Perché? Cosa è successo? Mi sono fatto male ieri, ci ho messo le passerelle dove sono le barche, no? Tra una passerella e l'altra c'è uno spazio. Ci ho messo il piede lì, zucuvarabbo. Infatti il piede l'ho dovuto levare a forza. Oh, ma non ancora mi ha risposto quello là, Boh, non so se è acquistata la sua batteria. Dimmi tu da fare. Non mi ha risposto. Mandatela a Facu. Se vediamo un po' ne cerco un altro, dai. Eia, se non ti risponde manda a cagare, guarda se ne trovo un altro. Comunque buonasera a tutti, dai, che mi preparo e devo andare a lavorare. Ciao Manuè, dai, forza e coraggio. Sì, la forza già c'è, anche il coraggio. Che lo papino è il coraggio di Zeis. Buonasera a tutti, dai, come prendete voi. Ciao Manuel, scusa se non ti ho sentito prima, se hai parlato perché io avevo lo squalcio un bel alto, me ne sono accorto adesso. Come Luca stava parlando a un qualcuno, ho detto chi è? Non sentivo nulla, l'ho abbassato. Ma stavate parlando della batteria della macchina, non è risolto, no? No, la batteria del telefonino. Ah, vabbè. Comunque si trovano e ne trovi, credo che ormai siano di dominio pubblico, anche comprate dalla Cina, Stati Uniti, Europa, già trovi di tutto in internet. A Sassari non trovi niente. È una cosa scandalosa. E vabbè già, quindi quello che ti devo dire te l'ho detto e ora io vado perché sennò si fa veramente tardi, ma non vedo l'ora di mettere la notte in garage e spogliarmi, accendermi la TV, ubriacarmi, non lo so, sono stanco morto. Ma devi andare ancora a fare l'aspetto. Come? Devi ancora uscire a fare l'aspetto. No, due fesserie sono, carta igienica, acqua in bottigliette piccole. Due fesserie sono, dai, liquido per piatti, no? Se no non posso lavarmi i piatti. Quello che si alimentare sotto casa tua non c'è più, quello che ha prima di noi. No, già c'è l'origa, sì che c'è. No, ma hai troppa poca scelta, cioè ti fa sempre il coso del caffè, tu vai lì e trovi una marca di caffè e un modello. No, io voglio andare in negozi dove c'hai tante marche e di ogni marca c'hai tanti tipi di caffè. Capito? Voglio scelta, non voglio accontentarmi di quello che trovo, è l'unica cosa che trovo per varie categorie. Oh Manuel! Sì, vabbè, bacino legale! Manuele! Ehi, Rolù! Allora, mi confermi, Huawei Mate 10 Pro? Ehi, ok, da, va bene. Ok. Allora, 30 giugno o 3 luglio, va bene? Andava. Faccio l'acquisto, da. Ehi, No vabbè Luca adesso sta facendo roba. L'avevi sentita Luca, forse una legge europea che vuole fare in modo che i cellulari, gli smartphone, abbiano di nuovo la batteria estraibile come era una volta. Però non so se si è accampata in aria, ma sarebbe una buona cosa. Cioè lo puoi aprire, puoi togliere la batteria, semplicemente mettere la nuova e richiuderlo. Allora, su questo sono d'accordo con te, va bene. Però è meglio che il telefono abbiano un sigillo, cioè una specie, una sorta di guarnizione, ecco, per l'acqua, se no addio, non ha senso. Sì, oddio, anche quello è vero, però io anche quegli smartphone vecchi non li bagnavo mai, cioè se c'era pioggia lo tenevo ben coperto, se dovevo rispondere usavo l'ombrello, ma io li consideravo comunque, perché tanto poi i sigilli magari durano i primi mesi, poi vanno a puttane i sigilli, oppure entra qua dal foro delle cuffie, dal foro dell'altoparlantino, cioè io non mi fiderei mai, anche se è bello sigillato, a lasciarlo all'eventuale pioggia, capito? Certo, può aiutare per la polvere, ma per esempio il mio si è rotto, no? Si è scollato il fondo, beh, appena si è scollato ho guardato con la pila dentro, nonostante fosse sigillato, come dicono dalla fabbrica, era tutto bubaru. C'è quella polvere finissima, sottilissima, quasi impalpabile. Lo so, ma dici qua. Ma lei ha acquistata, Ok, lui, appena è, me lo dice, ho detto lascia il telefono, te l'ho detto, basta che un'oretta ce la fa, perché io ho i servizi, mi mandano i servizi da fare al telefono. Non mi dà problemi perché è gonfio. Guarda, c'era una batteria che mi sono cambiato del Samsung Galaxy S6 Edge, era un po' gonfia, cazzo, l'ho lasciata lì sopra dove faccio i lavori, qua nella scrivania, cazzo, mi stava togliendo tutta imbuffata, era manco male, se esplode mi davo tutto, sono pericolose queste batterie da lì, sono pericolose, sì, durano quanto vuoi, ma sono pericolose, molto pericolose. Stavo fa una batteria sicura, cazzo, no, una batteria che si gonfia così, mi fa. No, comunque mi sono costruito un power bank, l'hai visto già su Facebook? Sì, praticamente a me mi è caduto nel water il telefono. Il tuo? E allora, è caduto nel water, subito l'ho asciugato, ma ho fatto il tempo di pagare la tua, non subito, però avevo già tirato la cartella, quindi era pulita l'acqua. Sono andato, l'ho pulito, l'ho passato subito il foro, si è asciugato subito, grazie a Dio non mi ha dato problemi. Sei stato fortunato, vuol dire non è entrata qua dentro, perché se entra qua dentro fa danno. Alla mia ex volta gliel'ho salvato. Ho detto che pretendeva di aprirlo subito senza avere attrezzi. E poi vedi cosa ne ha, un cazzo. Vabbè. Se ci sono i tecnici adesso, paga, se lo fa fare. Giusto per ritenere una, a me. Io l'ho il mio, va bene come telefono, solo che quando sono in casa cade la linea e si sente anche a tratti, però per il resto va bene, quando sono fuori va benissimo, deve esserci qualche cosa qua che lo disturba. I numeri sono? No, Natali, perché con gli altri telefoni non me l'ha mai fatto, cazzo. Con gli ultimi telefoni, gli ultimi due telefoni me l'ha fatto. E pure no, che a chi bisogna i muri spezzi e non entra rosignati, compreso. Pure funziona benissimo il telefono mio, ma qua cade la linea ogni tanto. Bella signora. Eia, c'era anche Tonino in parcheggio, e poi mi è sembrato sentire Eugenio, io faccio venire avanti, e quindi vado a fare sta cosa, lascialo, tanto mi già, tu mi dici, se non hai gana, ma la moto è fuori, quella va in garage va messa perché è più rubabile, quindi devo uscire comunque, dai, e quindi approfitto. Eugenio, se mi copi, riprendi, quelli per me e vado a fare le commissioni. Eugenio, avanti. Buonasera a tutti, e allora, da quanto tempo? Vabbè, a Gianni l'ho visto anche ieri a Placcavona, che l'ho salutato, mi ha salutato, e vabbè, va, lasciamo stare, va. Buonasera a tutti. No, non ti ho visto oggi, se no, non è da me, non ti ho visto, e lo vedi? È ovvero, tu sei passato alla rotonda, se vuoi ti dico anche come eri vestito, avevi la maglia a strisce, strisce bianche e marroni. Ma lo so, vabbè, ma tu non mi hai salutato, se no ti avrei salutato se ti avessi visto. No, non mi hai visto, ti ho salutato, ti ho suonato, ma non mi hai visto, ero morto, ero distratto. Buonasera a tutti comunque, buonasera, mi allorgia, cosa mi raccontaste? Amico mio di Porto Torre, se mi ascolti, capo fratello, già sei passato a ciappami, sì. Sapevo che eri pure di punti, ma sei poco passata a salutarmi, bravo, sì. Ti saluto più. ci pare rosso. Allora, non è giusto solo con bastardo, ma è troppo da fare a toga rottire, quindi è vero obbediente, agito, non lo disturbiamo, va? Ci mi rabbi tu grosso, massimo bulldozzo, che eri lì, allora io sono passato, ma eri troppo di fare da farato, allora sono andato via, non ti volevo disturbare. Mi hai dato scherzando, ci mancherebbe. No, scusa, sono amico, se me l'ha detto Massimiliano, se ci conoscevamo già, boh, te lo conosco di persona, Eugenio Puglia, siamo conosciuti alla rotonda, e via, tranquillo, tranquillo, lei è un cagacazzo questo, scusate il termine, rompi in balle, non volevo neanche parlare con nessuno, infatti io già gli ho fatto d'occhio, anche a Tonino, sono passati, e ho capito al volo, vabbè, dai, cazzo, cioè, pare che sia... Fai chissà bene di chissà cosa. Si occupava di niente, si occupava di niente, si occupava di non si occupava di un animale, no? Vabbè, comunque. Cattere di merda, avanti. Ma Torino c'è, Torino ci sei. No, non ci riprendi già. Dimmi. Una cosa che tu, magari lo sa, ma il chiosco di Piazza Mona, quello è Fuis, no? Non c'è niente con il Fuis. Quel furgone che c'è sempre a Piazza Mona, di Piero, coso, Tore. No, è il Tore quello, no, non c'entra niente Fuis, ci sono ciò che è da vicino, sto vedendo che si sta facendo. No. È il Tore. Gianni, come mi hai detto di mettere il ghiaccio, scende, è vero, cala il gonfiore. Ma non lo dovevi caricare, dovevi tenerlo in alto e mettere il ghiaccio. E subito, adesso vabbè, provo a metterlo, ma non so se faccia effetto adesso. Dovevi farlo subito. Chiara gara. E quando ci sono queste cose qui, devi tenerlo in alto e con il ghiaccio sopra e ti si sgonfia su. Ma Torino non l'ha ripreso. E mia, vai, sono come in spagnoli, sono come intendi. Oh, cabron, andare adelante, adelante. Stessa linea, ha detto, no, forse è ma è bassa la propagazione. Oh no, che qua già mi arrivo a forza, maledizione. No, questo è anche con tre. Quindi lui si sposti da tre parti per con la bancarella, diciamo. E Luca, quasi si è andato fuori. Sì, va, c'era anche a Porto Torres, c'era. A Porto Torres dove? E quando? Allora, Porto Torres era di fronte al rifornitore di Via Male, il giorno che c'erano le vibrazioni. Ah, il giorno delle vibrazioni, ok. No, io non c'ero. Ero in turno. Non c'ero, là. Cava. Vabbè. E comunque l'ho trovato anche a Porto Torres. E lui, il principale è un po' così, sembra Mussolini, cazzo. Mussolini. Non vuole che si avvicini nessuno. Ha messo un filmato su Facebook, stava salutando un amico, ha detto no, lo salutare, cazzo, e poi viene qua, si è sentita la voce del principale. Ma chi sa c'è il principale? Penso di sì. E ha paura che lo distragano, magari bruci la roba, capito? Non c'entra niente con quelli che tengono fuori il furgone di sassa, io. No. Ma con Torre c'aveva il negozio via Pascoli, faceva panini, arrostiva, c'aveva, faceva catering, tutta questa roba qua. Faceva pasta al forno, era anche bravo, io ho comprato qualche volta che siamo andati con mia moglie a fare la spesa, siamo tornati tardi, siamo andati lì e abbiamo comprato la roba. Ed è veramente buona, era veramente buona, poi l'ha chiuso, non so il perché. No, ma già io ci sto scendendo quasi tutte le sere da Bastone. E ti dirò, roba buona, c'ha quella carne di cavallo che è ottima, panini belli sostanziosi, e poi si sta anche bene, capito? Sta molto bene. Poi lui è molto gentile, anche i figli molto tranquilli, quindi si sta bene, io scendo lì, la mia bella Sprite fresca, dopo il panino con la Coca-Cola, con la carne di cavallo, sta veramente bene, ci prende il fresco a Budi Nandi, e lui comunque è molto gentile. Sì, Vittorio è un amico, guarda io a Torre l'ho visto che uno è andato una volta, quando c'aveva proprio la palinoteca, il negozio, è andato questo qui, gli ha detto, Otto, non c'ho soldi per mangiare, non è che mi puoi dare qualche cosa. Gli ha detto, frate, scegliti quello che vuoi e pigliati quello che vuoi, e poi te lo dà, non c'è problema. le ha dato un bel roba, le ha melanzane, pasta al forno, le ha dato un sacco di roba. Ma ci vede che è una persona in gamba, tranquilla. Persona brava. No, a noi, io con mia moglie scendo quasi ogni sera, ci stiamo andando. Ci tratta proprio bene, ci mette il tavolino, ci dà le sedie, c'è l'arva, no, è un molto gentile, molto gentile. Sì, torna in gamba, è una persona in gamba, dai. Non gli si può dire nulla. A me ogni volta che mi vede, e beh, frate, da lontano. No, io credo che fosse uno dei fossi, capito? No, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Sapete, lui aveva una paninoteca anche grande, cioè aveva gastronomia, tutta questa roba, faceva le pizze, se tu portavi il porcetto te lo faceva arrosto, c'era il forno a legna, capito? Ti faceva il porcetto arrosto, ti pagavi 20 euro, quindi ti faceva il porcetto arrosto, ma ha fatto come ti si dove. No, capito. E andate. Va bene. C'avevo un macchinone prima, adesso non so se ce l'ha ancora, una macchina rossa tipo Ferrari rimaneva, sportiva, è una bella macchina. Non è per caso la Mustang con le bordature nere sopra il cofano? Mi sa di sì. Ma ieri c'era parcheggiata la Mustang, qual era con quei parcheggi a Cavona, con la Mustang rossa, bella. Lui ce l'aveva così, non lo so se poi l'ha venduta o che cosa, ce l'aveva lui, quella lì, non lo so se poi l'ha data, però forse quella lì è quella di Tore, perché so che il figlio aveva avuto un incidente con quella macchina e poi non so se l'ha aggiustata. Ah, ho capito. Ripeto, c'era una rossa parcheggiata lì, diciamo di fronte alla gelateria, quel parcheggio interrato di fronte alla gelateria, rossa, bella, con le bande nere sul cofano, sulla cappotta, bella. E allora sarà quella sua, sicuramente, perché l'ha messa davanti per vederla, sicuramente. Bella macchina, 5.000 benzina, oh mamma. C'è una ripetta a gas. Ma quel furgone, quel chioschetto deve rendere bene, ci va un sacco di gente a mangiare, a bere, no? Va bene, sono contento, gente tranquilla, sono contento. Prima ce l'aveva più grande, ma mi pare che quello grande l'ho visto al figlio e ne hanno preso un altro, capito? Anche il figlio mi pare che fa queste cose qua. E l'ho visto, mi pare, in una festa con quello grande. Prima ce l'aveva grande, lì il cane era grande. Infatti questo è più piccolo di quello della Portesco, ne hanno due allora, ne hanno due, sì. Magari uno fa una festa, l'altro fa l'altra, poi Platamora lui ce l'ha fisso, tutti gli anni ci va a Platamora. Sì, lui è fisso lì, è fisso, ci sono tutte le stanze, va benissimo. Ti scendi, ti di fresco, mangi bene, alla dottura. E infatti non mangi porcherie soprattutto, sempre di carne, io prendo carne di cavallo con la salsa barbecue. Sì, hanno tutto. Ah, va bene. Vabbè. Quindi mangi roba come se la mangiassi a casa, un po' di insalata, la carne di cavallo che è tenera. E la salsa barbecue, come se mangiassi qualcosa a casa. Sì, questa carne di cavallo te ne la segna. Buona. Va bene, vai, io ti devo lasciare già. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, che dobbiamo uscire, ciao. Ciao, ciao. Buona serata e buona passeggiata. Dai. Io adesso vedo un po'. Magari ci scendo anche io col cane a fargli prendere un po' l'aria. Dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ci sentiamo. C'è rimasto qualcuno su 10? Timothy 7.